europea eccezionale a Venezia. Berlusconi torna all'attacco dei giudici, nuovo appello a Casini, si ravveda sull'appoggio al governo. Il Natale dei nostri militari in Afghanistan, oggi la visita del presidente Schifani. Il Natale dinanzi alla TV, concerti e film, molti già visti. Una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio, buona vigilia a tutti. Il Natale però è sotto acqua in tutta Italia. È arrivato sul nostro paese la perturbazione atlantica che, come previsto, ha portato a cattivo tempo su tutta la penisola. Ed è critica la situazione in Liguria e anche a Venezia. Ma ci racconta tutto in diretta e accanto a me la nostra Laura Bettini. Buongiorno, sì, forti piogge stanno battendo da ore numerose zone del nord, provocando disagi e allagamenti. Come anticipavi Anna Rita, Venezia nella notte marea eccezionale, acqua alta 144 centimetri e non sarà probabilmente l'unico record. Paura anche a Vicenza e nella sua provincia, dove il fiume Bacchiglione è rimasto un sorvegliato speciale, anche se la situazione, a quanto ci hanno riferito poco fa anche il sindaco di Vicenza, la situazione, dicevamo, va migliorando. Preoccupazione nello Spezzino, l'allarme per il fiume Magra qui è rientrato, ma è stata la seconda notte da isolati per i 600 abitanti di Tellaro, che da due giorni sono costretti nel borgo a causa di una frana. Nelle case, tra l'altro, manca l'acqua, quindi paradosso da ieri. Capitaneria di Porto e Protezione Civile porteranno in mattinata acqua e viveri di prima necessità. Avrebbero dovuto portare in mattinata viveri di prima necessità, speriamo siano riusciti nell'intento, per ora non abbiamo notizie in proposito. Giunge dal Savonese però una notizia più preoccupante: una frana ha ricoperto un tratto della provinciale numero 51, si teme che sotto i detriti possano esserci delle persone, ovviamente si lavora sul posto per cercare di fare chiarezza sull'accaduto. Per il momento è tutto. Grazie a Laura Bettini per questi aggiornamenti e resta pesante anche la situazione all'estero. 400 voli annullati a Parigi, blocco della circolazione ferroviaria e autostradale in tutta la Germania, oltre 500 chilometri complessivi di ingorghi in Belgio. È questo il bilancio del maltempo nell'Europa centro-settentrionale, investita negli ultimi giorni da fitte nevicate e da freddo intenso che stanno provocando pesanti ritardi. Nell'aeroporto della capitale francese di Oissy, Charles de Gaulle, la neve, tornata a cadere nella notte, ha provocato la cancellazione del 50% dei voli, trasporti fermi nella regione del Nord-Pas-de-Calais, dove oltre 800 persone sono rimaste bloccate sulle strade rese inagibili. Il gelo blocca anche la regione di Bruxelles, annullati nello scalo di Charleroi i collegamenti per Milano, Madrid e Praga. E in Germania molti gli incidenti causati dal ghiaccio. Oltre 50 vetture sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento sull'autostrada Berlino-Monaco. Aerei a terra anche a Düsseldorf, mentre migliora la situazione nello scalo di Francoforte. Per l'Istituto Tedesco di Meteorologia non si vedeva così tanta neve dal 1908. Giacomo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte politico, Natale ancora di polemiche tra i poli. Berlusconi, dopo la conferenza stampa di ieri, ha riparlato questa mattina. E allora noi ci colleghiamo in diretta con Roma con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Tanti temi affrontati nel nuovo intervento dal Premier dopo quanto già detto ieri nella conferenza stampa di fine anno: governabilità, i rapporti confini, la crisi economica, la Fiat, il pianeta giustizia. Partiamo proprio da quest'ultimo punto: dovremo completare la riforma entro la legislatura, conferma il Presidente del Consiglio. Si tratta, spiega ai microfoni di Mattino 5, di un'emergenza grave e drammatica. Sentiamo allora Berlusconi. Non rinunceremo mai a dire che la magistratura e persino la Corte Costituzionale emettono troppo spesso sentenze che appaiono politicamente orientate. Il Presidente del Consiglio ha quindi confermato la volontà di andare avanti, grazie anche alla ricerca di una maggioranza più ampia, chiaro il riferimento al terzo polo, quindi la riflessione del Premier su Casini, sentiamo. Potremmo vedere anche se lui ha perso una grande occasione quando c'è stata la diaspora di Fini, poteva sostituirsi con i suoi parlamentari ai parlamentari del FLI e aiutare la maggioranza di governo dall'esterno, dando prova di un grande senso dello Stato, di un grande senso di responsabilità. Non l'ha fatto, speriamo che si ravveda. Su eventuali dimissioni di Fini, il Cavaliere ribadisce deve rispondere alla sua coscienza e alla sua dignità. Infine l'economia, il 2011 sarà l'anno della ripresa. Quanto alla Fiat e all'accordo su Mirafiori, per il Premier si tratta di un'intesa storica. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Da sinistra risponde il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Ecco cosa ha detto ad Oscar Giannino durante 9 in punto questa mattina, proprio rispetto all'avvicinamento tra PDL e Terzo Polo. La ragione Bersani a dire che in questi 10 anni abbiamo perso delle occasioni, però la principale di queste l'abbiamo persa quando eravamo al governo e siamo stati dalla mattina alla sera a litigare tra un Turigliatto e un Dini, tra un Mastella e un Diliberto su che cosa fare. Dopo un anno e mezzo siamo andati a casa, quindi bisognerebbe avere il coraggio di fare un'analisi un pochino più seria e approfondita. Ma io penso che se il PD continua a inseguire le alleanze fuori dal proprio campo di azione e non si preoccupa di, invece di tirare fuori due o tre idee forti con le quali tornare a entusiasmare il proprio popolo, secondo me il PD è destinato a vivere di rincorsa e a perdere tutti gli appuntamenti. L'abbiamo visto con molta chiarezza in questa affannosa ricerca di un dialogo con il terzo polo, no? Addirittura per qualcuno il compagno Fini diventava una sorta di punto di riferimento straordinario. Io credo che non sia così. Ed ora ci trasferiamo in Afghanistan, visita i nostri soldati questa mattina ad Herat del presidente del Senato Schifani. Ci colleghiamo con la nostra Elisabetta Fiorito. Siccome ha annunciato ieri al Senato il presidente dell'Assemblea Renato Schifani qui ad Herat per salutare il nostro contingente in Afghanistan, siete il fiore all'occhiello del nostro esercito. Questa missione avrà una fine, non ci possiamo permettere di restare. Il nostro fine è portare l'Afghanistan verso la democrazia. Abbiamo pagato un prezzo molto alto, dice poi Schifani. Il paese non dimenticherà. Sono infatti 34 caduti tra i soldati italiani dall'inizio della missione ISAF in Afghanistan nel 2000, e questa sera qui a Herat ci sarà la messa e il cenone della vigilia. 4.000 soldati impegnati nelle operazioni di pace in Afghanistan. Sentiamo cosa ci hanno raccontato di questo Natale lontano da casa. Sono Ginaria Bettelli Matteo. Da dove viene? Dalla provincia di Cremona, sono dell'ottavo reggimento alpino, brigata alpina Giulia. Ecco, com'è la situazione adesso? Diciamo che negli ultimi mesi la situazione è andata stabilizzandosi, sembra che ultimamente non vanno poi così male le cose. La popolazione civile come li vede? Ah, la popolazione civile ci vede in maniera molto positiva, abbiamo buoni rapporti, comunque siamo qua per aiutarli. Buongiorno, da dove viene il suo grado? Buongiorno, primo CM di Marinis, vengo da Napoli, ho 31 anni. È la prima volta che sei qui in Afghanistan? No, è già la seconda e faccio parte della brigata Alpina Giulia, terzo reggimento da montagna. Questa sera che cosa farete? Questa sera saremo in base, hanno organizzato anche da noi un cenone, saremo tutti insieme. C'è poi l'aspetto politico che il Presidente del Senato non dimentica, ci fa è favorevole alla stabilità, ma se tra gennaio in Parlamento cosa succederà? Non entra nel merito della richiesta di dimissioni da parte della Lega del Presidente della Camera Gianfranco Fini, è un dibattito che attiene alla politica e non all'aspetto parlamentare, dice Schifani. Mentre su Silvio Berlusconi, che prevede un successore all'interno del PDL, il Presidente del Senato è d'accordo. E per il momento qui da Herat è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie dalla nostra Elisabetta Fiorito. Mi sono trovato davanti una generazione che si sente inascoltata e a cui dobbiamo dare delle risposte. Mettiamo al centro il tema dell'ascolto, della capacità della politica di tornare a comunicare con i più giovani. Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un colloquio con il direttore della Stampa, in cui spiega di aver accolto i leader del movimento studentesco perché la loro protesta non era stata sporcata dai segni della violenza. Molti giovani si vedono costretti a lasciare il nostro paese per ottenere una realizzazione professionale, la cosiddetta fuga dei cervelli. Ieri primi interventi concreti per evitare questo esodo forzato. È stata approvata dal Senato in via definitiva la legge per il rientro in Italia dei giovani under 40 da almeno 2 anni all'estero. Si tradurrà in incentivi fiscali per i giovani che tornano nel nostro paese. Benefici in particolare per le donne. L'ideatore della legge, il deputato PD Guglielmo Vaccaro, al microfono di Sergio Nava. Potranno chiedere degli sgravi fiscali importanti, fino a 200.000 euro di minori imposte, come a dire che fino a 500.000 euro circa di introiti non si pagheranno tasse. Lo potranno fare i ragazzi che sono andati via, che stanno all'estero da oltre 2 anni, ma varrà ovviamente anche per quelli che sono in partenza e che, maturati 2 anni di permanenza all'estero, decideranno di ritornare nel nostro straordinario paese. Torneremo su questo argomento domani alle 15 nel programma Giovani Talenti. Adesso il nostro consueto appuntamento con l'Italia che rialza la testa dopo la crisi. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010 siamo a un più 45% rispetto al 2009, che significa poi aver recuperato la metà, insomma, circa. Un bel risultato per Ivano Corghi, direttore di Valvoil SPA, azienda di Reggio Emilia, che produce componenti oliodinamici per macchine agricole, edili e per veicoli industriali. Nel 2009 il fatturato era calato del 48% e si era fatto ricorso alla cassa integrazione, l'azienda ha 700 dipendenti solo in Italia. Ecco la ricetta di Ivano Corghi per uscire dalla crisi. Abbiamo continuato a fare degli investimenti per quel che riguarda il processo produttivo, abbiamo continuato a investire per l'innovazione del prodotto e poi abbiamo continuato anche il processo di internazionalizzazione che noi avevamo iniziato nel 2004, che ci vede presenti in diversi paesi industrializzati, a partire dagli Stati Uniti, la Corea del Sud, l'India e la Cina, e in previsione abbiamo anche l'apertura di filiali in Brasile e successivamente anche in Russia. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sui giovani, sugli studenti, ne abbiamo parlato proprio poco fa, ma da Roma arriva un aggiornamento. Ieri il ministro Gelmini, dopo l'approvazione della riforma universitaria, aveva teso la mano agli studenti dicendosi disposta ad incontrarli dopo le festività. Loro non sembrano intenzionati a raccogliere questo invito. Il giorno dopo l'approvazione, i responsabili dei movimenti a capo della contestazione al testo di riforma non sono sembrati entusiasti dell'invito del ministro e hanno detto che si rivolgeranno ancora una volta al presidente Napolitano, a cui subito dopo Natale invieranno le loro proposte, con in testa la salvaguardia delle borse di studio, delle fasce deboli e degli alloggi studenteschi. Musica e TV a chiudere questa prima parte del nostro GR, musica con un ospite speciale con il quale gli ascoltatori di Radio 24 trascorreranno il Natale. Zucchero, ospite di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai, domani alle 12. Sto provando qualcosa di molto bello rispetto al Natale, forse invecchiando. Gli anni passati, cioè qualche anno fa, il Natale era piuttosto, sì, una cosa dovuta, ci si riuniva eccetera eccetera, anche a volte lo trovavo anche un po' troppo patetico. Ultimamente invece non vedo l'ora che arrivi Natale, lo sento già nell'aria, perché finalmente ci siamo riuniti con la mia grande famiglia. Cerchi di contornarti il più possibile di persone genuine, ecco, io per il prossimo anno ho coniato questa parola che voglio sentirla spesso a casa mia: genuinità. E dove si trascorre il Natale? A tavola, sicuramente tutti noi mangeremo delizie a partire da questa sera e poi proseguiremo fino alla Befana. Però una gran parte la farà anche la TV, proprio perché saremo in casa a mangiare, spesso con film che vediamo Natale dopo Natale. Le reti ormai sono tantissime e vasta è di conseguenza l'offerta, ma i capisaldi non mancano, quelli mai. Se questa sera Rai 2 trasmette il consueto appuntamento con il concerto di Natale, Rai 3 rinnova la sua tradizione con il Festival del Circo di Monte Carlo. A pranzo del 25 il concerto di Natale della Basilica di Assisi su Rai 1, su Rai 2 sempre all'ora di pranzo il tradizionale canto di Natale di Topolino, seguito da Tarzan, Bianca e Bernie e Trilli il tesoro perduto, mentre Canale 5 punta sul classico comico Ti amo in tutte le lingue del mondo e Italia 1 sui più giovani con il concerto di Alessandra Amoroso. Ma soprattutto c'è il Natale 3D di Sky, per chi sotto l'albero ha messo il televisore nuovo. Due i film, A Christmas Carol e Alice in Wonderland, ma i veri immancabili sono due e ci saranno entrambi stasera sulle reti cadette Mediaset, Il piccolo Lord su Rete 4 e Una poltrona per due su Italia 1. E la notizia è arrivata allo stesso John Landis. In Italy and England. Succede solo in Italia, Gran Bretagna e Francia che facciano questo film a ogni Natale. Negli Stati Uniti lo trasmettono tutto l'anno, ha detto. Ma sono contento, è una bella cosa. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16, ancora buona vigilia dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Nuvole temporali su tutta Italia, situazione critica in Liguria, marea eccezionale a Venezia. Berlusconi torna all'attacco dei giudici, nuovo appello a Casini, si ravveda sull'appoggio al governo. Di questo abbiamo parlato nella prima parte, adesso parleremo del Natale russo, oggi in TV il discorso del presidente Medvedev e poi del calcio, attesa per l'annuncio dell'arrivo di Leonardo in casa nerazzurra. di bilanci politici a fine anno, oggi tocca alla Russia. Per il presidente russo Dmitry Medvedev, la ripresa economica della Russia dopo la crisi finanziaria globale rappresenta l'evento più importante dell'anno 2010. Nel corso di una diretta televisiva, il leader del Cremlino ha dichiarato che l'economia russa è riuscita a far fronte alle sfide globali, mentre quest'anno la crescita economica dovrebbe raggiungere il 4%. Sul piano internazionale, Medvedev ha esaltato il ruolo del presidente statunitense Barack Obama, che era riuscito a ottenere dal Senato americano la ratifica del nuovo trattato START sulla riduzione degli arsenali nucleari. Obama è un politico che mantiene le proprie promesse, ha detto Medvedev, ricordando il fatto secondo cui nel 2011, proprio grazie al sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, la Russia dovrebbe riuscire finalmente a entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per quanto riguarda la situazione interna della Russia, il leader del Cremlino ha lanciato una dura critica al primo ministro Vladimir Putin, che nel corso di un programma televisivo aveva proclamato l'ex magnate petrolifero Mikhail Khodorkovsky colpevole, un ladro che deve stare in prigione. Nessuno ha il diritto di esprimersi in questa maniera prima che sia pronunciato il verdetto del tribunale, ha detto Medvedev. Vladimir Sapochnikov, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mosca. Meno 8 i gradi a Mosca, così per darvi un'informazione in più. In questi giorni, nonostante il maltempo del quale abbiamo parlato nella prima parte, resta massima allerta negli aeroporti per gli spostamenti. E a Fiumicino oggi c'è stato un arresto, un singhalese arrivato allo scalo internazionale Leonardo da Vinci insieme a due connazionali con un volo proveniente da Malta ed in attesa di imbarcarsi per Doha in Qatar. Controllato dai carabinieri, è stato sorpreso con due coltelli ed un cacciavite nascosti nelle tasche dei pantaloni. Intanto a Roma resta la psicosi pacchi bomba. Alle 11 all'ambasciata d'Irlanda in via Giacomo Medici a Trastevere l'ultimo allarme. I funzionari, avendo ricevuto al centro smistamento un plico giallo molto simile a quelli esplosi ieri alle ambasciate della Svizzera e del Cile, hanno chiamato la polizia e gli artificieri. Il plico però conteneva semplicemente un biglietto di auguri. E via libera intanto da ieri dall'Assemblea Capitolina al regolamento che disciplina la nuova tassa di soggiorno a Roma. Il contributo dovrà essere versato da ogni turista che pernotti nella capitale. La tariffa giornaliera va dai 3 euro a notte negli alberghi a 4 e 5 stelle ad 1 euro per i campeggi. Esenti i bambini fino a 10 anni e anche altri comuni italiani potrebbero seguire questo esempio. Contrario il direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali, Mario Resca. Sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Va bene, è un messaggio non positivo a quello che invece è per l'Italia il turismo una delle grandi risorse che può solo migliorare se noi facciamo abbastanza, e credo quello di imporre delle tasse non sia a livello mediatico una cosa simpatica per chi viene a visitare, che noi ospitiamo, che spendono soldi, che fanno lunghi viaggi per venire a trovarci. Quindi insomma lei vede negativamente questo provvedimento? Decisamente molto negativo per l'immagine, non solo per l'immagine. Noi eravamo il primo al mondo 20 anni fa nel turismo, oggi sono scesi al quinto posto. Non è una strategia corretta quello di penalizzare chi viene a trovarci, a visitarci. Noi dobbiamo, perché portano ricchezza, e quindi io credo che questa sia una norma che sia veramente di breve periodo e non lungimirante per quello che è un asse portante della nostra economia, che è il turismo, e lì dobbiamo puntare di più, perché fare posti di lavoro con le fabbriche, purtroppo, ahimè, lo vediamo, la recessione in atto fa chiudere molte le nostre aziende che producono beni, perché la delocalizzazione è già venuta da decenni, e quindi credo che invece una area importante su investire sia proprio il turismo, e questo secondo me mortifica questo sforzo che l'Italia deve fare nella direzione di creare ricchezza attraverso l'industria del turismo, che è un'industria fondamentale su cui tutti gli altri paesi europei competono, cioè tutti fanno di tutto per attirare i turisti. E da Napoli, come previsto, un Natale tra i rifiuti. Si è riusciti almeno un po' a recuperare, ma ci sono ancora 1400 tonnellate in strada oggi. E in alcune zone, come il centrale Corso Vittorio Emanuele, i cumuli sono così grandi che addirittura stanno creando problemi alla viabilità. Glauco Mancini era l'ultimo assaggiatore di tabacchi italiano ed è morto di tumore ai polmoni nel 2000. Ora il Tribunale di Roma ha condannato i monopoli di Stato a risarcire la famiglia con €1 milione. L'avvocato Romolo Reboa sulle condizioni in cui Mancini ha lavorato per 40 anni. L'ambiente di lavoro era una saletta completamente umida, sempre aperta. Perché? Perché il tabacco noi sappiamo che deve stare a determinate temperature. Basta che si vada in qualsiasi albergo di lusso e si vede come vengono conservati i sigari, devono stare a delle temperature fredde. Per poter riprovare bisognava fumare e conservare il tabacco in una sala adeguata. È lì che si fanno le prove, è lì che per tanti anni è stato mandato a fumare. Forse era un fumatore, non aveva pensato quello che gli sarebbe successo, non aveva pensato che stava mandando la sua vita in fumo, anzi, idealmente, visto che lo faceva il suo datore di lavoro, che era lo Stato italiano, pensava che il resto fosse tutta propaganda. Calcio anche alla vigilia con l'Inter sotto i riflettori, atteso in giornata l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Leonardo, ma ci racconta tutto in diretta il nostro Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, buongiorno, la novità proprio di pochi istanti fa è che in realtà bisognerà aspettare dopo Natale per conoscere il nome del nuovo allenatore dell'Inter, lo ha detto proprio pochi minuti fa Massimo Moratti uscendo dai suoi uffici dove in mattinata ha incontrato a lungo i dirigenti della società ufficialmente per definire l'acquisto a gennaio del giovane Ranocchia, ma certamente anche per fare il punto sul dopo Benitez, qualcosa certamente faremo ma non sarà prima del 26, ha detto Moratti che poi ha negato che un eventuale ingaggio di Leonardo possa essere uno sgarbo al Milan. Pur dovendo registrare questa frenata, in realtà tutti gli indizi continuano a portare al nome del brasiliano, anche se proprio in mattinata è tornata d'attualità anche la candidatura di Walter Zenga. Da qualche ora infatti gira non confermata l'indiscrezione di un'improvvisa rescissione del contratto tra Zenga e il club arabo dell'Al Nasr. Se confermato ovviamente potrebbe anche essere una mossa di Zenga per farsi trovare libero a un'eventuale chiamata dell'Inter. Queste però sono voci, la certezza da qualche minuto è che oggi non dovrebbe arrivare l'annuncio sul nuovo allenatore dell'Inter, così ha detto Moratti. In realtà anche nel pomeriggio negli uffici dell'Inter si continuerà a lavorare. Da Milano è tutto, linea allo studio. Grazie Giovanni, ovviamente ci terrai informati. Fiato ancora sospeso dunque per il futuro allenatore dell'Inter. Il sondaggio di oggi di Bianco o Nero: secondo voi il consumismo offende il senso del Natale? Il 72% di voi ne è fermamente convinto, no invece per il 28%. Gli sprechi, quindi voi siete abbastanza d'accordo nel riconoscerlo, ci sono. Ci sono tra cenoni e pranzi di famiglia, sono soprattutto molto grandi gli sprechi di cibo. In questo periodo la Coldiretti prevede che gli italiani spenderanno circa 2,8 miliardi di euro in alimentari. Dalla Fondazione Banco Alimentare giunge un monito alla responsabilità. Michele Albini ha raggiunto al telefono il direttore del Banco Alimentare, Marco Lucchini. Lo spreco sotto le feste certamente è più abbondante perché ci sono più occasioni per festeggiare. Però, detto questo, è un periodo dove bisogna festeggiare, dove si sta assieme, si convive, quindi non sono di certo per ridurre questo clima di festa. Sono per tener conto che c'è la possibilità, sia in fase di acquisto, quindi di avere più attenzione quando si compra, di avere in mente esattamente quello che si vuol fare senza essere attratti da qualche tranello. Sia in fase, ad esempio, di servizio, banalmente, portare non grandi portate sul tavolo, ma portare pian piano la roba e il resto conservarla ad esempio in frigo e poi riutilizzare, non dire tanto è finita la festa, gabbato lo santo come si suol dire, ma pensare che si può ancora fare o riscaldare, ricucinare o inventare nuovi piatti. Sempre il nostro Michele Albini ci parla anche dei regali particolari, perché ci sono degli sprechi anche nell'ambito dei regali, questo sicuramente, però ci sono anche dei regali davvero singolari in queste festività, soprattutto in un momento di difficoltà economica. Molti regalano animali, i più ambiti sono pastori tedeschi e cani di piccola taglia, mentre molti regalano anche cani di razza molto pregiata. Il mercato sembra esplodere proprio sotto le festività, però a portarli in Italia sono spesso oscuri trafficanti di animali. tipico regalo natalizio, quello dei cuccioli, è un mercato fiorente. I dati parlano di 350.000 animali, soprattutto cani e gatti, venduti sotto le feste. Ma, smaltite le tenerezze iniziali, la loro sorte spesso volge al peggio. 4 su 10 vengono abbandonati per strada, morendo in gran parte sotto le automobili. Un mercato questo che presenta dati inquietanti anche a monte, come ci spiega Lorenzo Croce, presidente dell'Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente. Il problema è la diffusione del numero di animali che vengono importati. Si parla di 600-700.000 cani che arrivano solo dall'est Europa. Quindi, oltre ad esserci il problema dei cuccioli regalati e poi abbandonati, c'è il problema anche di sapere dove questi animali poi finiranno, quelli che non sono venduti e che sono in gran parte purtroppo malati. Non di rado sono le mode a portare all'acquisto gli animali domestici, ma se esiste la ferma volontà di portarsi a casa un nuovo amico a quattro zampe, l'adozione canili e gattili è sempre la scelta più etica. Si tratta invece di andare a conoscere l'animale, farsi conoscere dall'animale, una volta individuato il cane o il gatto che va bene per noi, dopodiché diventerà un amico inseparabile per tutta la vita. Michele Albini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, un aggiornamento che riguarda la cronaca: la psicosi dei pacchi bomba a Roma. È arrivata una rivendicazione, Federazione Anarchica Italiana, una rivendicazione che secondo gli inquirenti è attendibile. Una notizia ovviamente che approfondiremo nel corso delle prossime edizioni. Intanto chiudiamo questa parlando di un museo nel bellunese davvero particolare. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? È un'urna in un paesino all'ombra delle Dolomiti bellunesi, il simbolo di questo Natale che meno ti aspetteresti. Vi sono contenuti pugni di terra provenienti da tutto il pianeta, da tutti, ma proprio tutti, i paesi del mondo. Terra e sassi mescolati insieme serviranno per fare 198 mattoni del mondo che verranno donati ai rappresentanti di tutti i popoli, oltre al segretario generale dell'ONU. Un'idea fantasiosa nata in una comunità per ragazzi in difficoltà della cooperativa Arcobaleno di Feltre. Una pace simbolica di quel che di più concreto non c'è, la terra che calpestano gli uomini di tutto il mondo. E non a caso, accanto all'urna delle terre del mondo, sono ancora sassi e pietre a raccontare tante storie. C'è il carbone della miniera di Marcinelle, una scheggia di Nassiria, una tegola di Hiroshima, l'unica che il governo giapponese abbia mai donato, un pezzo del ponte distrutto a Mostar, in Bosnia, e ancora un sasso rosa della casa dell'ebreo Rabin e uno giallo della dimora di Arafat a Ramallah. E poi le pietre di Capace via D'Amelio, un mattone della casa di Don Milani a Barbiana, un blocco del muro della cameretta di Youssef, ucciso nella sua casa di Erba, e un banco dei bambini della scuola di San Giuliano. Sassi, pietre, mattoni, tutti insieme sotto l'ombra delle Dolomiti, sono il museo dei sogni e della memoria. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia a Paolo Corleoni. Vi lasciamo ad Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.